Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Cardinal Giannino, la vedo molto in forma, tifoso Granata Doc. Mamma mia, ma guarda, adesso io non voglio paura, io lo so, cari ascoltatori dell'Inter, per fortuna che ci siete voi ogni tanto. Che poi rido io, no? Vabbè, rido perché dico meno male che c'è l'Inter, ecco, no, almeno. No, perché la caduta del mio toro verso il rischio di Serie B era proprio, sembrava, e invece grazie al cielo con l'Inter. Meno male che c'è l'Inter. Ecco, con l'Inter. Inter è andato per una volta, è andato bene. No, solidarietà a tutti, ragazzi. Una volta va male, due volte va peggio. Questo è più o meno il nostro motto per noi torinisti che soffriamo. Allora, oggi 4 aprile, grande santo per la Chiesa, Sant'Isidoro, dottore della Chiesa, grande patrono di Siviglia, oggi grandi feste a Siviglia. E tra gli altri santi del giorno, i comunissimi nomi di Agatopodo e Teodulo. Chi non conosce un Agatopodo nella sua vita? E c'è anche un San Platone. Ah! Pensa un po'. Beh, allora mi fai l'assist, caro Oscar. Mi fai San Platone. Cari ascoltatori, annunciazione. Ecco. Cari ascoltatori, domenica 10 aprile, cioè domenica prossima, non avrete sicuramente nulla da fare. Figurati. Perché al Teatro Manzoni di Milano, mica un teatrucolo qualunque. Teatro Manzoni, che succede? Teatro Manzoni, alle 20:45 c'è Platone, torna Platone, Leonardo Manera, ci sono anch'io, tanti comici, Leo Zelig si ride, e soprattutto c'è, oh mamma, c'è, oh mamma, guest star, no, chi c'è? Oscar Giannino, no. Dai, venite a vederci, è molto semplice, www.teatromanzoni.it. Io come maschera assegno i posti e accompagno i signori in platea, questo è il mio ruolo, ma lo faccio molto volentieri, molto volentieri. Tra l'altro, San oggi, San Platone, è apposta, quando l'ho visto ho detto, vediamo come reagisce. Oggi nasce nel 1951 Francesco De Gregori, muore nel 1968 Martin Luther King, ovviamente è ovvio che purtroppo la seconda cosa è una perdita peggiore, ma anche certo. Francesco De Gregori, per quella della mia generazione che volete, resta un punto di riferimento. Nella famosa canzone degli U2, April 4, infatti, no? Allora, come cantano. Cosa allora, beh, ci sono tante notizie oggi, se volete, cari ascoltatori, chiamarci 800 24 00 24 sulla vicenda petrolio, Renzi, le lobby, non le lobby. Ma esempio che Emiliano su Libero dice, Emiliano, sono un governo venduto alle lobby del petrolio, in sostanza questo la tocca piano, la tocca dire. Piano, ma lui lo fa, dai, per portare acqua al referendum, no? Però sì, però questo la dice lunga, cioè voglio dire, questa vicenda non è un collasso di tre cose: politici che non sanno separare il rigore elementare che bisogna avere rispetto a temi così delicati per evitare conflitti di interesse, e questo è un punto. Secondo, partiti che però divisi al loro interno non sanno decidere prima e oramai danno botte da orbi, se permetti, facendo pagare anche al paese un conto eccessivo, perché quindi se fossero chiarite le idee all'interno dei loro organi un anno fa, due anni fa, su che scelte energetiche volevano, era meglio piuttosto che di questo regolamento dei conti. Terza cosa, ci risiamo con la giustizia che si sopprisce tutto, perché è la solita storia, sì. Cioè, se uno vede su questi temi di indagine sono anni e anni e anni che succede dalle stesse procure sugli stessi temi. Infatti io ieri facevo una considerazione, se vuoi anche spiacevole, sgradevole, messa poi su Twitter così, no, velocemente, cioè, ma scopriamo adesso nel 2016 che qualsiasi governo, come dire, è sensibile alle pressioni di portatori di interessi? Questo no, però quando poi viene scoperto e scoperchiato in maniera così clamorosa, forse, Oscar, ci vorrebbe la famosa legge sulle lobby, no? Ci vorrebbe una legge sul lobby, e soprattutto quello che si vede è che la norma attuale, la legge Frattini, per intenderci, il conflitto di interesse è acqua fresca, come è evidente. Cioè, il problema del conflitto di interesse, questo l'abbiamo già detto quando è scoppiata la vicenda della Guidi, al di là e oltre la telefonata rispetto alla quale pagherà e si vedrà nel processo chi è indagato, cioè il suo compagno, se ha ricevuto l'indebito vantaggio patrimoniale dell'influenza che esercitava su un ministro e un pubblico ufficiale. Però al di là di questo, il problema è che il ministro, avendo un'azienda di famiglia in energia, non si doveva occupare di energia e basta. E quindi, secondo me, visto che l'energia è una componente fondamentale al MISE, era un po' improprio che facesse il ministro. Non credi che la vicenda Guidi è già, tra virgolette, passata? Adesso si alza il tiro? Come... Sì, ma si alza il tiro, ma si fa un enorme polverone. Cioè, io lo dico, per esempio, fuori dai denti, visto che ci sono tre filoni di indagini. Uno riguarda quello dell'inquinamento ambientale, e questo riguarda l'ENI, se veramente nelle acque reflue della Basilicata finiscono prodotti tossici. Ok, vedremo se i responsabili dell'ENI accertati pagheranno. Il secondo è l'impianto di Tempa Rossa, e quindi anche il compagno del ministro Guidi. Il terzo, incredibilmente, è una cosa di fronte alla quale, perdona, non riesco proprio a prenderlo sul serio. Cioè, vogliamo, per me che me ne sono occupato come altri giornalisti che seguono temi di difesa, ma veramente scherziamo e pensiamo che la legge navale di rifinanziamento della marina militare pluriennale, di cui si è parlato per anni e anni e anni, può dipendere da un piacere al porto di Augusta? Accertiamo se ci sono piaceri proprio al porto di Augusta, perché è indagato il capo, ma senza buttare, cioè è un paese in cui da vicende su cui bisogna fare tutta la chiarezza del caso ci finisce per fare dei polveroni generali su tutto. Sta di fatto che Renzi ieri è andato alla Luce Annunziata e ha attaccato, cioè ha rivendicato quell'emendamento, sentiamolo, lo voglio, l'ho fatto io e lo rivendico, no Renzi? L'idea di sbloccare le opere pubbliche e private l'abbiamo presa noi. La rivendico. Poi naturalmente il problema è che cosa succede dopo, perché se qualcuno commette degli illeciti, come lui va a casa? Insomma, va a casa. Comunque dice, la rivendico, è un Renzi che ha fatto da scudo a Mariella Boschi. Scudo, certo. Fa scudo, cioè addirittura in secondo retroscena. Sì, ma secondo alcune retroscena dice, è incredibile che vogliano ascoltare Maria Elena, i magistrati, ascoltino me. Come dire, responsabile del governo sono io, l'emendamento è voluto. Tant'è che i magistrati hanno fatto subito poi trasparire, non avevo mai pensato di sentirla veramente, se vuole prendiamo un caffè insieme. Sì. Però quello che è evidente è che questa vicenda, come altra l'Etruria, soprattutto in precedente, sfiora il nocciolo duro, per così dire, il combustibile fissile della centrale nucleare Renzi. No, la cerchia ristrettissima di coloro che per definizione, mentre la Guidi si può sostituire, mentre quando è venuto il Ministero delle Infrastrutture, Lupi è andato per via del Rolex del figlio, chi è invece? Boschi fa parte del motore immobile, come, per così dire, come dice oggi Antonio Ricci, intervistato al Corriere della Sera. Antonio Ricci è il padre di Striscia la Notizia. La domanda: ma la Boschi si dovrebbe dimettere? La Madonna mica può dimettersi, è proprio piangere la vita per la morte del figlio. Antonio Ricci. Comunque, se volete 800 24 0024, chiamateci su questo, cioè a capire se vi ha convinto Renzi, se invece ti piace invece la proposta di Boeri? Io prima la segna stampa dicevo Boeri. Però immagino che alcuni ascoltatori ti abbiano già massacrato. Ma ragazzi, ma ci sono 500.000 italiani che sono in pensione da 36 anni. Guarda, su Twitter un'ascoltatrice mi ha scritto, Corinna Marzi, questo è la condanna alla miseria dei nati dopo gli anni 70. Questa cosa, la condanna alla miseria. Lo so, però in questo l'Italia è riuscita per l'ennesima volta a dividere gli italiani tra loro. Questo è il bello. Cioè, questo è brutto. Sì, perché invece di pensare a un sistema che non si regge per via del fatto che la politica prima ha allargato, poi ha dividono gli italiani tra loro. E questo è come sulle tasse, la stessa cosa. Questo è un po' triste, sono d'accordo con te. Perché non si riesce a parlare in termini logici di come correggere gli errori della politica, ribadiamolo, non dei pensionati. Bravo, cioè... perché no, mi scrivono arrabbiati dicendo, ma io cosa dovrei fare? Mio padre ha 99 anni, lo dovrei ammazzare. Dice, ma no, io sto dicendo, non è che ce l'ho con voi che prendete la pensione. Però aprite gli occhi quando e qualcuno dice che forse va corretto questo sistema, invece di trincerarsi sempre dietro no, non si tocca. Comunque, anche ieri il governo ha detto che le idee di Boeri sono idee eterodosse, che non c'è niente di tutto questo allo studio, il contributo quindi sulle pensioni oltre 2.500 euro non ci sarà. Voti. Ecco. Come dici tu, sono voti. Lo dici tu sempre, oimè, sono voti. Oimè, è così. Sì, detto questo, per i giovani resta non amaro, amarissimo, perché loro devono pagare con i contributi attuali, siamo in un sistema di ripartizione, le pensioni a ripartizione, a retributiva, che loro non avranno mai e non hanno neanche la durata contributiva per maturare la loro miserella pensione chissà quando. Questo è l'amaro problema con cui dobbiamo fare i conti. Perché ce l'hai spiegato tante volte, che non è che i pensionati dicono ma io ho messo via i soldi, no, sono i giovani che ti stanno pagando la pensione. I soldi non ci sono da parte, caro pensionato che da 36 anni o 40 anni, per tua fortuna, viva viva, ma io voglio che tu ne arrivi a 60, cioè, per carità di Dio, mio padre è morto che ne aveva oltre 90 di anni, anzi non parecchi, oltre 90, e anche mia mamma che c'è a oltre 90, pensate mica che io sia lì a dire mamma levati da... Ma al contrario, detto questo, ai giovani cosa facciamo? Continuiamo a combinargli questo gioco sulle spalle, pazzesco. Tanto non se ne farà nulla. La proposta Boeri, cioè di dare un contributo da parte delle pensioni più alte, non ci sarà perché sono voti e quindi non verranno toccati. Non ci sarà. L'Italia è così. Del resto non riusciamo neanche a far approvare l'azione di responsabilità verso i ladri ex amministratori della Banca di Vicenza. Non passa in assemblea, ragazzi. Cioè l'Italia è un meccanismo di questo tipo. A chiacchiere si cambia sempre tutto per il rinnovamento e impariamo la lezione. Di fatto no, perché c'è sempre un blocco, un amico dell'amico, un presidente amico. Ma dai. Però mi ha colpito anche un'altra cosa, giusto che così mettiamo tutto nel calderone. Nel calderone. Se avete dei soldi a Panama, potete stare... Potete stare abbastanza sereni, immagino. Sereni per decenni, ma da che il gruppo Mossack Fonseca poi lo finisce per dare ai giornali, mica tanto, perché... Ah no, ecco, interessante, perché secondo te sono stati loro, questo gruppo di avvocati, Mossack Fonseca. Con la CK, perché non fai Mossad, Mossad è cosa seria, di resto. Adesso è una battuta, va bene, tiro indietro. Però. Cioè sono loro comunque... che hanno dato i nomi dei conti a Panama, i giornalisti. Beh, comunque gravita intorno a loro questo, perché tutta sta ricerca e tutta questa cosa, cioè gli archivi sono loro, sono di questo studio di avvocati. Magari qualche che sono a metà tra la vittima, per così dire, del leaks, cioè della diffusione, però sono anche riconoscimento in questa vicenda di essere uno dei tempi più sacri e riveriti in tutto il mondo per sistemare questa genere di affari. Nomi e nomi influenti di persone, ma capi di Stato, pare anche Putin, anche se non è citato, ma ci sono amici suoi. Tutto il sistema dei suoi amici per pacchi di centinaia di miliardi. Il re della Arabia. Emiri, Lionel Messi. Lionel Messi, i soldi a Panama, Jarno Trulli. Vabbè, Jarno Trulli stiamo scendendo in ordine di importanza, però capisci. C'è anche un nome importante, c'è Luca Cordero di Montezemolo che smentisce, dice non conosciamo l'avvocato, questo avvocato Fonseca. Sì, per me non è che se lo conosce o meno, se ce l'hai o meno, questo è il punto. No, esatto, sì, però diciamolo chiaramente, avere i soldi a Panama non di per sé vuol dire che sono soldi non puliti, però è chiaro che vedere il nome lì... È chiaro che se il sistema intorno a Putin però c'ha miliardi e miliardi, uno dice vabbè ragazzi abbiamo capito, un sistema di spoliazione. 2 miliardi di dollari avrebbe Putin. 2 miliardi di dollari sono tanti, sono abbastanza, sì. 2 miliardi, caro Oscar. Ci chiama Fabrizio da Sanremo, sentiamo Fabrizio che ha da dirci. Buongiorno. Fabrizio ha da dirci questo. Insomma, direi che è abbastanza certo che, chiara come comunicazione. Diciamo che Renzi l'abbiamo sentito, vogliamo sentire anche Di Maio, però che Di Maio attacca. Attenzione, perché Renzi, tra l'altro, dice: querelerò Di Maio, o meglio, lo farà Davide Ermini. Non ho capito perché questo deputato, Davide Ermini, querelerà Di Maio. All'inizio sembrava che dovesse essere Bonifazi, l'ex tesoriere. No, Bonifazi chiederà i soldi a Grillo. Sì. E Ermini invece chiederà, querellerà Di Maio. Di Maio, vicepresidente della... Poi comunque hanno un pochino abbassato anche a Bonifazi, perché Bonifazi, attenti a quello che sto per dire, non voglio essere equivocato, avendo passato delle vacanze all'estero con Maria Elena Boschi, alcuni strizzano l'occhio e dicono invece no. Ma allora gli stessi pidini, c'era stata questa della liaison. Io avevo anche chiesto una volta a Bonifazi, che lui aveva stare attenti con tutto, perché sennò qui io gliel'ho chiesto, insomma, tocca la Madonna muore. È una domanda legittima. Vogliamo sentire Di Maio? Chi vuole mandare a casa il governo Renzi? La minoranza PD vuole mandare a casa questo governo o si vuole tenere la poltrona? Stiamo parlando sempre dei soliti sporchi interessi fatti sulla pelle della democrazia e della libertà dei cittadini. Vabbè, insomma, questo è Di Maio, ovviamente il Movimento 5 Stelle. A questo punto la domanda diventa: si fa il quorum al quesito del 17 aprile, che peraltro è su una norma del tutto secondaria, che non è affatto trivelle sì, trivelle no, perché ricordiamolo, no, il nostro compito sarà come giornalisti dover ricordare Alessandro com'è la questione vera, perché sembra che qui si tratti di votare trivelle sì, trivelle no, tra virgolette, no, magari, dico io, invece no, nel senso che il governo Renzi aveva riaperto alla ricerca e all'estrazione di fonti fossili nel nostro paese dopo i veti che erano stati messi dal governo di centrodestra e dal governo Monti, e questo è il decreto sblocca Italia, se non che poi nella legge di stabilità 2016 si torna ai veti per nuove concessioni entro le 12 miglia vicino ai parchi marini e così via, proprio per smontare i quesiti referendari, ma ne sopravvive uno e voi voterete solo se andate a votare sull'ipotesi se la concessione data per una estrazione deve avere la stessa durata del giacimento. Su questo votate, non votate su altro. Su altro. Allora, facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, perché poi avremo ospiti Chicco Testa, avremo ospite anche un giornalista, Leo Amato, del Quotidiano del Sud, che segue molto l'inchiesta di Potenza, e quindi ci concentreremo su questo. Le vostre chiamate all'800 24 0024, tra poco state con noi. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Allora, caro Oscar, eccoci qui, sono le 8:37 minuti. E entrambi ci siamo riassicurati in questa breve pausa, possiamo dirlo, non abbiamo soldi a Panama, per un secondo no, abbiamo fatto altre, ma niente, non risultano i nostri nomi. Magari si erano sbagliati, cioè qualcuno ce l'aveva mandati. No, non ci sono. Esatto, a insaputa. Potevano essere lì anche a insaputa nostra. Pensa che bella dichiarazione se avessimo detto, le abbiamo anche noi, ma a nostra insaputa. Ma a nostra insaputa. Siamo come il Cardinal Bertone e autorevoli ministri. Ma a proposito di Cardinal Bertone, ma sai che ho scoperto questo? Lui ha detto che ci sono 30 cardinali con appartamenti più grandi della sua. Secondo una vulgata, in alcuni c'è questa battuta, in alcuni appartamenti si gira in bicicletta. In bicicletta, in bicicletta, sì. In altri si corre la maratona, direttore. Cioè, fanno il record del circuito. Sì, sì, no, ma si tengono il tempo, ma eminenza. Oggi ho battuto il record. Chissà chi tiene il record di giro dell'appartamento. Devi fare io, certi giri di fare i fari. Sono Cristo in croce. Ma dai. Cardinale, ma come fai? Sono Cristo in croce. Il Cardinale Bertone. Vabbè, in realtà noi stiamo parlando adesso, vogliamo approfondire la questione sia politica sia giudiziaria anche, no? Di questa vicenda. Di questa vicenda del petrolio, diciamo così tutti abbiamo chiarito e capito di cosa parliamo. Trivelle varie. Con noi c'è Chicco Testa, che salutiamo, ben ritrovato Chicco Testa, imprenditore. Buongiorno. Che è stato anche presidente del Modo particolare Alessandro Milan, che ha sempre bisogno di solidarietà per vari motivi, che fa un lavoro duro. C'è un po' di sale sulla coda. Insomma, sì, è così. Essendo io milanista e Chicco Testa juventino, devo pagare un po'. Oh, ecco, è crollato il Napoli. Oscar Giannino è anche granata, quindi siamo proprio sventurati. Ci vedremo a Roma alla finale di Coppa Italia, Chicco Testa. Comunica che ospiterò Alessandro Milan la partita di finale di Coppa Italia. E ti sistemerò per le feste. Allora, insieme a Chicco Testa vogliamo salutare Leo Amato, giornalista del Quotidiano del Sud. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Amato. Buongiorno. Intanto resta da capire, cioè bisogna capire la vicenda giudiziaria. Allora, Leo Amato, da quanto risulta gli inquirenti sentiranno Renzi a questo punto, visto che Renzi lo ha chiesto esplicitamente, oppure no? Ma loro hanno detto che non ne avevano intenzione, però effettivamente, avendo rivendicato la paternità di questo emendamento tanto discusso, sembra quasi un atto dovuto a questo punto, quindi non mi sento di escluderlo. Non senti di escluderlo. Dal punto di vista giudiziario, quali sono le questioni, se ce le puoi far capire? Beh, sappiamo dei tre filoni dell'inchiesta, quello sull'inquinamento collegato o comunque sulla gestione dei rifiuti liquidi del Centroli dell'ENI di Viggiano e poi quello delle subcommesse del progetto Tempa Rossa di Total, che poi in realtà è in parte condiviso anche con Shell e poi con ENI dal punto di vista infrastrutturale. E abbiamo anche un terzo filone che invece può dividersi tra il porto di Augusta e Roma. Quello che, io, che prima Oscar diceva. Sì, quello che a me sembra un po' gonfiato per definizione. Ripeto, ho seguito per anni nelle commissioni di difesa la legge navale. Come si fa a pensare, se ci sono degli illeciti sul porto di Augusta, benissimo, ma non è che la legge navale può dipendere dal piacere a qualcuno sul porto di Augusta, però questa è opinione mia. Vedremo. Questa è la procura, la procura indagherà. Però Amato, qual è la questione politica che potrebbe riverberarsi anche negativamente a livello nazionale e che potrebbe provenire da Potenza? Sicuramente il referendum che è alle porte, per quanto il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti abbia detto, per fugare qualsiasi sospetto, che la richiesta relativa a questa inchiesta di misure cautelari, intendo, era stata presentata già a maggio, è un fatto che l'ordinanza sia arrivata a meno di 20 giorni da questa consultazione. Cioè è un fatto che il click clock tic dell'orologio, guarda caso, è arrivato 2 settimane prima del referendum. È un caso, ma devo dire che poteva andare anche peggio per il governo, perché se quell'emendamento in questione, il famoso emendamento Temparossa, fosse rimasto tra i quesiti referendari assieme a quello sulle trivelle in mare, sul prolungamento delle concessioni, probabilmente ci sarebbe stato un plebiscito sull'inchiesta più che un voto referendario tra il 17 aprile, intendo. Sì, certo. Questo è vero. Invece quell'emendamento appunto non è tra i referendum e quindi... È tra i referendum perché a dicembre il governo ha fatto retromarcia. La legge di stabilità di quest'anno, sì, come diciamo. Con la legge di stabilità di quest'anno, era il quesito numero 4. Certo, però è un dato di fatto, Chicco Testa, che ci si interroga, e Renzi ha risposto così da Lucia Annunziata, l'idea che noi siamo al servizio dei lobby mi fa schiantare dalle risate, però oggi Emiliano, il governatore della Puglia, è quello che vuole appunto portare la gente a votare al referendum. Devi dire anche però che tra tutti i firmatari promotori gli altri presidenti avevano fatto una marcia indietro, sono scomparsi. Resta Emiliano che oggi su Libero dice: Renzi è al servizio delle lobby del petrolio. Allora Chicco Testa, che le lobby, roba che se dicesse uno nel suo partito finirebbe querelato come stanno querelando i 5 Stelle. Ma è chiaro, Chicco Testa, che le lobby, che diciamolo francamente non è una parolaccia, le conosce. Chicco Testa, allora com'è la questione? È un governo al servizio delle lobby? Ma mi sembrano gigantesche sciocchezze, no? È chiaro che se un paese decide che ha bisogno di estrarre in questo momento soprattutto gas e petrolio, diciamo, dai suoi giacimenti, ci sono delle aziende che ovviamente lavorano in questo settore, come ci sono delle persone che verranno assunte, ci sono dei lavoratori e via discorrendo. È la normalità di un'economia. No, è chiaro che sarebbe come dire che se io autorizzo, che ne so, IKEA ad aprire un supermercato, sono al servizio della lobby dell'IKEA. Se autorizzo il panettiere qui sotto a raddoppiare i suoi spazi, sono al servizio del panettiere. Ma che ragionamento è? Quello Oscar che diceva, Renzi dice: noi aiutiamo a sbloccare ed è questo che facciamo per il paese. L'altro la questione purtroppo il governo ha dovuto fare marcia indietro, perché 10 regioni hanno promosso un referendum che, attenzione, è solo in parte un referendum sulle trivelle. Il punto centrale è che queste 10 regioni hanno promosso il referendum per riappropriarsi dei loro poteri in materia di energia. Esatto. Questione che Oscar Giannino lo sa benissimo, sapendo che abbiamo discusso per anni, dicendo che bisognava riportare al centro i grandi progetti strategici, cioè quelli che hanno un interesse nazionale. Qui però resta da capire una cosa, come dicevi Oscar, e cioè se il ministro, in quel caso l'ex ministro Guidi, lavora però nel campo dell'energia e fa anche il ministro, cioè un conto è portare avanti delle cose per il bene del paese, un altro conto è la questione del potenziale conflitto di interessi di chi lo fa. D'accordo, ma voglio dire, il progetto Tempa Rossa è un progetto che consentiva alla Basilicata di continuare a estrarre petrolio, da cui peraltro ricava 300 milioni all'anno di royalties e contributi vari, e poterlo portare a Taranto, perché altrimenti questo petrolio sarebbe dovuto andare a Taranto con centinaia e centinaia di camion. Questo è il punto centrale. Poi il fatto che una persona vicina al ministro avesse un qualche beneficio da questa cosa, è un fatto discutibile, certamente inopportuno. E io al posto di Federica avrei detto al suo compagno: per favore non occuparti di questa cosa, occupati d'altro, no? Benissimo, ok, ma distinguiamo le questioni. Come diceva il presidente Mao Zedong, ci sono le contraddizioni principali e quelle secondarie. La domanda principale è: un paese che dipende al 90% delle sue risorse energetiche dalle importazioni, sì, può essere così ipocrita da dire ho del petrolio, ho del gas, non lo estraggo, me ne frego, tanto continuo ad importarlo? Questa è la questione principale. Io però Leo Amato, un paese, sì, che è pronto a glorificare ogni, sì, tre minuti Enrico Mattei, no, grande eroe riscoperto dopo anni, eccetera eccetera, e che poi ne tradisce la memoria in questo modo però, drammatico. Leo Amato, la popolazione locale come vive questa in generale, ovviamente saranno spaccati, no, ma come un'opportunità, come dice Chicco Testa, cioè di slegarsi anche dalle importazioni di energia, oppure come problematiche? Leo, in entrambi i modi, perché c'è una profonda spaccatura, come hai intuito bene. Noi negli scorsi mesi abbiamo avuto addirittura manifestazioni contro e manifestazioni pro. C'è un indotto importante di centinaia di lavoratori occupati a Viggiano e anche a Corleto, dove in questo momento si stimano 2.000 persone al lavoro sul cantiere. Certo, il tema, quello molto caro anche al sindaco di Corleto, è diciamo l'origine di questi 2.000 lavoratori. Sì. Perché devono essere di Corleto, insomma. Devono essere necessariamente di Corleto. Certo. Devono essere anche tutti i suoi elettori. Pure. Noi abbiamo ricordato una famosa frase di Cettola Qualunque, che si impegnava a combattere la disoccupazione assumendo i figli dei suoi elettori e gli altri, eccetera eccetera. No, però ci sono alcune cose, per esempio, a me hanno colpito, io non lo so, poi l'inchiesta farà il suo corso, ma tu, Oscar, hai letto di questa storia di questo tenente Giuseppe Di Bello della polizia che indagava, denunciava i presunti rischi di disastro ambientale? È stato messo a fare che cosa, Amato? È stato messo a capo di un museo, responsabile di un museo? Sì, al museo provinciale. Cioè, ecco. Però ricordiamo anche questi tronconi di inchiesta. Magari non ha ragione, magari, no, però... Io voglio dire solo questo. Riattivando il ciclo di ricerca di estrazione di fonti fossili nel nostro paese, noi avevamo mobilitato una disponibilità a investimenti di compagnie energetiche italiane, ma soprattutto internazionali, che arrivava quasi a 20 miliardi di euro, 16 miliardi proprio accertati, erano proprio messi lì. Con questa maniera pandemoniale di affrontare il tema, senza che il PD avesse le idee chiare, affrontare prima i quesiti che fanno smontare il tutto, poi resta, poi arriva la magistratura, adesso riusciamo a compromettere anche i 6 miliardi residui che riguardano esattamente quelle concessioni se passa il quesito. E la prova è che degli impianti su cui si indaga sono già stati, perché l'ipotesi adesso inizia a essere quella di disastro ambientale, finiranno tutti sequestrati e bloccati. Allora, l'abbiamo già visto all'Ilva, dove ci porta questa roba qua, a un disastro nazionale. Io mi limito a dire questo, dopodiché, perdona. Cioè tu temi che questo accadrà? No, ma io sono certo che questo che verranno avverrà. Bloccati anche dopo, ma un certo, eventuale passaggio. Perché l'ENI non è più in condizione, l'ENI l'ha già chiuso da giorni quell'impianto, per essere chiari. Quindi sia il filone ambientale, per quello che riguarda le possibilità che finiscano prodotti tessici nell'acqua, reflue della Basilicata, sia il Tempa Rossa, che a questo punto salta, perché questo è quello che succede in Italia, qualunque sia il voto referendario, ripeto, e secondo me un paese che non è capace di distinguere eventuali reati o improprietà di politici da scelte energetiche nazionali, è un paese che si picchia in mezzo alle gambette. Immagino che Chicco Testa su questo sarà d'accordo. Cioè, no, non sono d'accordo, ma adesso invito voi due, diciamo giornalisti esperti, anche ad accendere il faro su un'altra questione. Questo sarà uno dei primi casi in cui viene introdotto il reato di disastro ambientale, così come approvato nella legge sugli ecoreati, no? Una legge che io contesto moltissimo, perché è piena di formulazioni assai generiche. Cioè, un reato ambientale, secondo me, c'è se qualcuno opera, per esempio, senza autorizzazione, se qualcuno sfora un limite stabilito per legge. Ma se io introduco formulazioni del tipo un'alterazione permanente dello stato preesistente, no, che è una formulazione molto vaga, mi trovo nel paradosso per cui io posso anche rispettare tutte le norme di legge, ma per caso si crea una situazione che qualcuno giudica come modificatoria dello stato preesistente e incorro nel reato, nell'eco reato. Sì. Tra l'altro, questa è la questione, chi giudicherà? Perché se nella legge ci fosse scritto, per esempio, che l'accertamento di questa situazione è fatta da istituzioni sanitarie pubbliche, per esempio l'Istituto Superiore di Sanità, mi sentirei perlomeno tranquillo, ma noi abbiamo casi, come quello di Vado Ligure, per esempio, in cui l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Regionale dell'Ambiente, l'Istituto Nazionale del Cancro hanno detto la qualità dell'aria di Vado Ligure è una buona qualità dell'aria, e invece i periti scelti dal procuratore no. dicono un'altra cosa. No, ma i periti sono privati cittadini, spesso scelti naturalmente in maniera appropriata perché sostengono determinate tesi, no? I periti di Vado, per esempio, sono gli stessi che avevano già operato su un'altra centrale preesistente. Quindi noi entreremo. Allora, si può chiedere, per esempio, che ci sia un'indagine, si parla di un'indagine epidemiologica, che venga fatta sì. da un istituto qualificato come l'Istituto Superiore di Sanità e non da qualche professore scelto a capocchia di qua o di là. Sì, io no, sul lago Pertusello ne ho sentito di tanti. Non so chi ha ragione, chi dice la verità, eccetera, eccetera. No, però ci sono tante verità. Ecco, e comunque noi seguiremo passo passo tutta la vicenda, perché il rischio di fare scelte concrete e sbagliate è fortissimo. Sì. Senza che questo significhi difendere politici corrotti, atteggiamenti impropri, manager che peccano i soldi. Due questioni diverse. Questo sì. Intanto ringraziamo Chicco Testa e Leo Amato, giornalista del Quotidiano del Sud. Ci sono ascoltatori, come si immagina, sulle pensioni, vedi, caro Oscar. Ma certo, non lo capisco. Domenica ci chiama da Ravenna. Venna, per esempio, buongiorno. Sì. Eccoci, sì. Allora, io volevo dire che una persona che prende una pensione di un certo importo ha il dovere di versare un contributo. Beh, dovere, insomma. Sì, da cittadino a... Cioè, non possiamo chiedere come un contributo morale ad una persona che prende una pensione di 500 euro. Certo. Ecco. Ma dovere morale, dovere... prende 3-4 mila, 5 mila. C'è già il contributo di solidarietà. Però è piccolo. Vale solo 12 milioni di euro l'anno, mentre invece col criterio oltre 2500 euro varrebbe centinaia e centinaia di milioni. Comunque, dovere. Stefano da Roma, invece. Stefano, siamo in chiusura, però, gentilmente. Sì, rapido. Io dico che lo scandalo delle pensioni in Italia è che in Italia l'INPS, l'Istituto di Previdenza, va bene, paga le pensioni di invalidità. Questo è uno scandalo di cui nessuno parla. Come nessuno parla? Abbiamo parlato pochi giorni fa. Abbiamo parlato due giorni fa, dicendo. Ma io non ne sento parlare mai. Cioè, abbiamo parlato venerdì, ho già capito dove vuole arrivare. Come anche lo scandalo enorme è che ci siano dei contribuenti che per tutta la vita, la maggior parte dei contribuenti pagano l'80% di tasse e accise allo Stato, e ci sono milioni invece di contribuenti che non pagano la lira, e in Italia non si fa niente. Questo è uno scandalo. La sperequazione, va bene. Il mio sistema migliora, il mio vantaggio, non mi rompete le scatole. Questa è la cosa di Stefano. Va bene. Comunque, dai, insieme a Elisabetta Fusconi. Tronca. Emanuele Brignoli, tronca. A Peter Vescapè, tutti che urlano tronca, lo sappiamo. Amici dell'Inter, un abbraccio solidale e grato. Meno male che c'è l'Inter, veramente il lunedì è un pochino meno grave. Scherziamo, ma mica possiamo solo parlare di disastri, ecco, tutto questo. Dai, ciao.